You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio, e cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Bentornati a Indovina chi viene a cena da Valentina Furlanetto. Oggi abbiamo un ospite, un cantante, David Lion D, per la scena artistica, metà italiano, metà nigeriano, una delle rivelazioni più interessanti dell'intera scena reggae europea. Innanzitutto benvenuto a Indovina chi viene a cena. Grazie mille. Allora, siamo qui in compagnia di Lion D perché è uscito da un po' il suo album, che sta già avendo molto successo, devo dire, e per capire un po' di più di questo personaggio e cantante che, come dicevamo, è italiano, sì, però è anche nigeriano e un pochino anche giamaicano, giusto? Esatto. È stata, diciamo, poi l'identità giamaicana e poi, diciamo, uscita nel tempo, no? Quando ho scoperto la mia passione per la musica. Noi di solito partiamo da una cena, questa è una cena a cui invitiamo un ospite per parlare di identità, di migrazione, e iniziamo sempre con un piatto. So che lei ci ha portato un piatto della Giamaica. Sì, c'è un piatto tipico della Giamaica che si chiama Aki and Saltfish, e praticamente sarebbe l'aki, è un frutto tipico della Giamaica, e con saltfish, che sarebbe, non posso dire, sto capisco, baccalà. Io però, diciamo, preferisco più solo l'aki perché, diciamo, da 6 o 7 anni sono vegetariano, però diciamo questo è uno dei piatti tipici giamaicani, quindi quando ho l'occasione di andare là e, per lavorare, insomma, per passare un po' di tempo, mi immergo, diciamo, anche nella cucina giamaicana, che comunque offre tanto anche a un vegetariano come me, perché comunque c'è una vastissima gamma di frutta e verdura. So che la Giamaica è stata lo scenario nel quale lei ha creato proprio il nuovo disco, no? Esatto. Infatti, per questo nuovo disco, Article Soul, mi sono recato nell'isola del reggae e ho avuto l'onore di lavorare a fianco di Alborosi, che insomma è uno dei più grandi, diciamo, maggiori esponenti, no, della musica reggae, no, a livello internazionale. E poi, oltre a essere un grandissimo artista, è anche un grandissimo produttore, quindi ha fatto da produttore, da supervisore per questo mio ultimo disco. Quale, insomma, vado molto fiero, perché insomma non è una opportunità che capita a tutti, no? Quella di lavorare a fianco di uno come lui, e poi soprattutto in un'isola, no, come la Giamaica, che per un artista reggae è, diciamo, il top, no? Hello. road of the Chalwa. Police are come with jeep and tanker, but we now go run. Anche Albo Rosi ha una storia particolare. Sì, Albo Rosi, io lo chiamo Albo ormai perché insomma, diciamo ormai siamo anche un po' piuttosto in confidenza, no? Visto che ho avuto la possibilità di conoscerlo da vicino. E lui sì, ha una storia che lunga, perché lui è, prima di trasferirsi in Giamaica, quindi già sono almeno 15-16 anni che vive là, e appunto artista italiano e che era attivo sul territorio italiano con una band, no? Che si chiamava Reggae National Ticket, che insomma era già famosissimo a quel tempo, però poi con la decisione di trasferirsi in Giamaica, diciamo che ha portato la sua musica, no? Assolutamente a un livello superiore, infatti insomma anche diciamo su un panorama internazionale, diciamo da quello, no? Italiano adesso si ritrova a girare il mondo, a fare tutti i concerti suoi sono sold out, quindi grande rispetto per Albo. Me no want no chemical, give me sweet and semina. Me build it up fat, me roll it in a deep paper. Me no want no big and come get to me nerves, yeah. Say we are go blaze up the ganja. Ayanaya, load up the chalwa. Police are come with jeep and tanka. But we not go run, no we not go run. Questo qua non è, diciamo, il mio ultimo disco, però ce ne sono stati almeno tre prima, tanto lavoro negli ultimi anni che mi ha portato anche a girare l'Italia da in lungo e in largo, ma anche fuori dall'Italia, quindi Europa, addirittura anche America. 2 anni fa sono stato in California, Oregon, Washington, quindi insomma dove mi porta, no, la mia passione, no? E anche il fatto che comunque io canto, non ho sempre scelto di non cantare in italiano ma di farlo in inglese o in patua, il patua giamaicano, che appunto è lo slang che usano in Giamaica, e queste cose qua poi dopo sono state anche le cose, no, che mi hanno permesso di andare fuori dall'Italia. Blaze up the ganja, ayanaya, load up the chalwa. Police are come with jeep and tanka, but we now go run. Ayanaya, blaze up the ganja, say we are go load up the chalwa. Babylon no love is a rasta, but we now go run. La musica giamaicana, quindi la musica reggae, è molto legata all'Africa, no? I giamaicani sono, durante il periodo della schiavitù, sono stati portati un po' nei Caraibi, appunto in Giamaica, un po' in Brasile, un po' per me, insomma, la mia storia è, io adesso dico qualcosa anche, diciamo, su di me, in modo che la gente possa conoscere anche, diciamo, the man behind the music. Io sono nato a Londra, quindi in Inghilterra, però mio papà è nigeriano, mia mamma è italiana. Quando io ero piccolissimo, diciamo neanche un anno, mi sono trasferito in Italia. Cioè, mia mamma si è trasferita in Italia, io sono andato con lei perché io ovviamente ero troppo piccolo, quindi non potevo trasferirmi da solo. E niente, sono cresciuto in Italia, per la precisione a Pesaro, nel nord delle Marche. E quindi sono cresciuto non avendo mai conosciuto mio padre, perché l'unica cosa che so è che lui è nigeriano. Sono cresciuto, diciamo, in mezzo alla cultura, no? Diciamo tipicamente, e anche allo stile di vita tipicamente, diciamo, italiano, no? E fino a quando, più o meno all'età di 16-17 anni, ho conosciuto la musica reggae, e ho incontrato, diciamo, no, la musica di personaggi come Bob Marley, Peter Tosh, Dennis Brown, che mi hanno fatto scattare qualcosa, no, dentro. E diciamo la parte che di me che non sono riuscito a conoscere direttamente, no, appunto il mio lato africano, no, da parte di mio padre, poi è stato colmato, diciamo, quel vuoto dalla musica reggae. Quindi di lì il mio intento, insomma, di fare questa musica, di far parte di quel mondo lì, perché comunque come i giamaicani sono africani, però diciamo sono stati presi dal loro contesto, no? E portati in un altro, diciamo, mondo, in un altro continente strano a loro, e hanno, allo stesso modo io cerco di ricongiungermi alla mia parte africana, e lo faccio tramite la musica. Abbiamo sentito qualcuno dei suoi brani inframmezzati alla nostra chiacchierata, ne sentiremo altri fra poco, ci fermiamo brevemente e torniamo subito dopo. Problema: in Italia si pubblicano 60.000 libri all'anno, 5.000 titoli al mese, 160 al giorno. Come faccio a scegliere quello giusto per me? Per andare sul sicuro, non perdere Un libro tira l'altro, di Salvatore Carruba. Ogni domenica, in mezz'ora, ti aiutiamo a orientarti nel grande universo della lettura, alla scoperta delle nuove uscite e dei grandi classici. Un libro tira l'altro, la guida sicura per chi ha fame di libri. Ogni domenica alle 6.30 e alle 22.30 su Radio 24. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Alba Rose. Boom. Respect. Lion D Day. Article love we are dealing with. Criminal behavior with the criminal face. Them follow criminal chase. Them dep on criminal pace. Criminal a criminal, no matter what race. Them a ask me a buckle of blood pan them rider. I'm stage them a provider. I've stage them a divider. Them face never skull like the one ghost rider. Them cry like spider. Them bad like Alzheimer. The world they love badness, cause badness make news. Love we a push, cause love a good news. We no inna no extortion, neither use and abuse. Never sure, not confused. Questa metà nigeriana che lei diceva, in realtà che è quella più assente, no? Che le rimane nel colore della pelle, nei ricordi che probabilmente la mamma le ha trasferito, però è quella più forte probabilmente, no? Sì, infatti è proprio questo, tramite la musica, diciamo, che è venuta fuori in maniera prorompente, e diciamo che anche che mi ha aiutato nel tempo a trovare un mio equilibrio, perché diciamo che prima ero, come dicevo, cresciuto in Italia, quindi diciamo quando cresci qua non è che poi, quando cresci, un bambino che cresce in un posto non si fa tante domande, diciamo, prende tutto per naturale e comunque si adatta facilmente a qualsiasi situazione. Poi, come ho detto prima, quando uno va avanti si guarda indietro e dice, ma aspetta, io c'ho qualcosa di diverso, no, dagli altri, devo scoprire questa cosa, non posso nasconderla, non posso far finta che non esiste, e appunto facendo leva su quella cosa io ho scoperto la musica, ho scoperto tutti quegli aspetti di cui ho parlato prima. E l'assenza di suo padre ritorna nei suoi testi? Ho una madre stupenda che diciamo non mi ha fatto mai mancare niente dal punto di vista affettivo, e sono cresciuto, insomma, anche con i miei zii, con i zii di mia mamma, insomma, non, dal punto di vista affettivo non mi è mai mancato niente. Ovviamente ho sentito qualche volta, tante volte, diciamo, la differenza quando poi ti vai a confrontare con magari un compagno di classe, un amico, differenza che poi è amplificata anche, no, dal fatto, no, dal colore della pelle, insomma tante cose. Però nel tempo devo dire che queste differenze, queste, diciamo, cose che all'inizio, questi aspetti che all'inizio mi sembravano magari come punti deboli, poi si sono trasformati in quelli che poi sono stati i miei punti di forza, no? Sul quale ovviamente c'è stato tanto lavoro. All we share is love. This is the article of all we share is love. The real rockstar love. All we share is love. The international love. All we share is love. Alvaro, tell them madness. No, for them a criminal. Judgments we say. Ah. Article and spiritual. And listen. Well, Albo, I got to stand up like lion in the jungle. Fight for my freedom and keep myself humble. Stay clean so we never yet stumble. Lion, the Alba Rossi, we are set an yo, example. Yo, love. Come mai il reggae e non il rap, ad esempio, che è un genere che ultimamente sta avendo successo tra i ragazzi, ma anche i ragazzi di seconda generazione soprattutto? Questa è una bella domanda. Guarda, innanzitutto dico che comunque io, diciamo, il genere musicale sul quale io mi sono, tra virgolette, specializzato è il reggae, però io ascolto, diciamo, un po' di tutta la musica black in genere, quindi anche hip hop. Mi piace l'ascolto, però devo dire che il reggae, per quanto riguarda me, lo sento molto più vicino al mio spirito, no? E molto più vicino all'Africa. Tra l'altro poi c'è una cosa importantissima da dire, che il rap, no? La tecnica appunto di rappare, di parlare, no? Diciamo, è nata non in America, ma è nata, diciamo, negli anni 60-70 in Giamaica, perché praticamente i primi ad usare, diciamo, il toasting, no? Questo modo di raccontare le cose non cantandole ma praticamente quasi parlandole, sono stati dei DJ giamaicani che, imitando gli speaker radiofonici, diciamo, commentavano i pezzi, no? Mentre il pezzo andava loro commentavano, e da quella cosa lì hanno creato, capito? Ogni DJ cercava di creare, diciamo, il suo stile, il suo motto, il suo slogan, e nel tempo hanno generato questo stile che ancora, diciamo, al tempo non si chiamava rap, però che i primi rapper, no? Anche in America, i primi rapper afroamericani ai quali, insomma, questi qua si sono ispirati. Quindi la Giamaica è proprio una un'isola che, dal punto di vista musicale, ha influenzato molto, molto, molto della musica, diciamo, che si sente in giro oggi, anche le cose magari che hanno preso più delle derive, diciamo, più, tra virgolette, commerciali. Volevo anche capire perché l'inglese invece dell'italiano. Perché l'italiano è una lingua bellissima, mi piace tantissimo, però per quanto riguarda la musicalità, l'inglese ha qualcosa di in più, mi offre qualcosa in più per me che sono un artista reggae. Tra l'altro, la maggior parte delle mie canzoni, dei miei testi, non sono in inglese, ma più che altro sono in Jamaican Patois, che sarebbe, come dicevo prima, uno slang, no? Lo slang giamaicano. È ancora più musicale. Diciamo, l'Italia è solamente, diciamo, il mio punto di partenza, però voglio che la mia musica arrivi più lontano possibile, insomma. E vedo, insomma, che sta funzionando, cosa che non sarebbe potuta succedere se mi fossi limitato a cantare in italiano. Poi devo dire che tante persone mi hanno chiesto: ma però dai, parli benissimo italiano, sei cresciuto qua, potresti farne un pezzo in italiano. È mai stato in Nigeria? Non sono mai stato in Nigeria, ma penso, sto pianificando di andare là molto presto. Quando andrò a lavoro, stare, insomma, là un po' di tempo, non fare toccate e fuga, visto che sarà una cosa molto importante per me. Qual è stata la difficoltà più grande nell'imporsi nel mercato discografico? Qualcosa legato al mercato discografico di per sé o alle sue origini? Ma secondo me è un po' un misto di tutti e due, sicuramente. Cioè, nel senso, per un artista è molto praticamente impossibile, se non è già un big, è impossibile, diciamo, vivere degli introiti del mio disco, no? Un artista vivrà più che altro con gli show. Per quello dico che io non, ultimamente, questi ultimi anni, non mi sono mai fermato, perché se non fosse stato per gli show, insomma, dal punto di vista discografico non c'è un grande ritorno. Invece a livello personale, qual è stata la difficoltà più grande? Crescere in provincia, in Italia, diciamo la verità, con il colore della pelle diverso dagli altri compagni di classe. È stata dura. Cioè, è stata dura. Io ho tantissimi amici che stimo e quali voglio bene, e penso loro vogliono bene a me, però loro, diciamo, questi sono miei amici, però diciamo fuori della cerchia, no, degli amici ho avuto diciamo le mie difficoltà, le mie piccole battaglie da combattere quotidiane, appunto perché per l'esteriorità, no? Perché comunque la gente non guarda il contenuto, guarda il contenitore. And a space criminal behavior with the criminal face. Them follow criminal chase. Them dep on criminal pace. Criminal a criminal, no matter what race. Them a ask for your buckle and blood pan them rider. Off stage them a provider. Off stage them a divider. Them face never skull like the one Ghost Rider. Them cry like spider. Them bad like Alzheimer. The world they love badness, 'cause badness make news. Love we a push, 'cause love a good news. We no inna no extortion, neither use and abuse. Never sure, not confused. All we share is love. This is the Arctic alarm. All we share is love. The true Rasta love. All we share is love. One heart, one love. All we share. Ma l'Italia è un paese razzista? Guarda, io ti posso dire solo una cosa. Proprio ieri mi è successo che per l'ennesima volta sono stato fermato dalle forze dell'ordine, no? Perché tanto ormai è successo tante volte, e senza nessun apparente motivo appunto sono stato fermato da questi poliziotti in borghese che sono usciti dalla macchina con la paletta dicendo fermati, documenti. E ho detto va bene, non c'è problema. E gli ho dato i documenti, hanno aperto i documenti, hanno fatto ah ok, sei italiano, ok, puoi andare. Ecco, questo è un po' come ancora io ritrovo l'Italia adesso, nonostante è un paese che amo tantissime cose dell'Italia, anche la cucina, nonostante all'inizio io abbia parlato di un piatto giamaicano. Però ci sono queste cose che, insomma, ancora siamo al 2015 e mi dispiace di vedere ancora queste cose qua. Siamo nel 2015 e il film da cui noi prendiamo spunto, Indovina chi viene a cena, è di quasi 80 anni fa. Lo conosce lei questa pellicola in bianco e nero, ormai giurassica, sull'incontro di una coppia mista negli Stati Uniti e la difficoltà della famiglia, nonostante fosse una famiglia progressista, della ragazza ad accettare il ragazzo? Le è mai capitata una situazione simile? Il film non l'ho mai visto, però ne ho già sentito parlare e non ho visto direttamente, comunque immagino che, nonostante sia, abbiamo detto, di 80, quanti anni fa? Degli anni 60. Gli anni 60 e rimane ancora attuale. A me personalmente non è mai successo con quelle che sono state le mie ragazze, le mie compagne, non è mai successo questo. Però difficoltà ne ho avute, cioè magari non per forza diciamo legate, diciamo, al genitore, ma magari, non so, il nonno, qualcuno di più radicato, no? Comunque sì, ma comunque, come ripeto, dopo di un po' queste cose diventano la normalità, quindi più che altro dopo uno si fa il callo, ma in realtà non sono cose che vanno bene, perché capitano troppo spesso, appunto. Io ancora non credo, non posso credere, ormai ci rido sopra, però non, in realtà non fa ridere per niente. Cioè, non è possibile che tu cammini per strada e vieni fermato così, ti chiedono cose così e poi dopo, perché vedi, ho la fortuna di avere i documenti, no? Italiani, la cittadinanza italiana, quindi ho la carta d'identità italiana, il passaporto italiano, il codice fiscale. E però fino a quel momento in cui io non do il documento nella mano delle forze dell'ordine, c'è quella mancanza, no, di rispetto e arroganza di fondo che è un po' difficile da sopportare, perché capisco in due secondi come si sente una persona che magari ha il colore della pelle come mia, però non ha i documenti o non ha, magari non sa parlare bene italiano. Sono cose che dispiacciono, sono cose che dispiacciono. Io ovviamente di queste cose qua ne parlo anche nella mia musica, perché il reggae è anche questo, come dicevo prima, è una musica che denuncia le ingiustizie, cercando di far vedere alla gente, guardate, le cose stanno così. Io non vi dico quello che dovete fare, prendete una posizione voi. L'Aki è un frutto originario dell'Africa occidentale che in Giamaica è stato portato dagli schiavi ed è diventato un piatto tipico di tutte le Indie occidentali. Ha una polpa gialla che assomiglia, anche un po' nel sapore, a quella delle uova strapazzate, ma è normalmente venduto in scatola bollito e in acqua salata, perché se consumato fresco contiene delle tossine che possono essere anche mortali. La Giamaica ne esporta per un valore di 400 milioni di dollari ogni anno e dal 2005 è stato accettato in commercio anche dagli Stati Uniti. In Italia è impossibile trovarlo, ma ci vuole poco a comprarlo dalla Gran Bretagna, dove invece è piuttosto comune. Ingredienti per due persone. Aki in lattina, 500 grammi sgocciolati, 200 grammi di stoccafisso dissalato, cipolla, cipollotto, 3 pomodorini datterini, aglio, peperoncino, burro, pepe nero, timo e soia. Il piatto si prepara facendo soffriggere aglio, cipolla, cipollotto e peperoncino fresco in un cucchiaino di burro, aggiungendo lo stoccafisso precedentemente lessato, privato delle spine e tritato al coltello, i pomodorini a fettine e un cucchiaio di salsa di soia. Vanno aggiunti poco sale, una generosa spolverata di pepe nero e le foglie di timo. Dopo una decina di minuti, mettere in padella la polpa di Aki e cuocere per altri 10 o 15 minuti. Grazie a Lion D per essere stato con noi oggi. Grazie mille per lo spazio. La nostra puntata termina qui, io vi rinnovo l'appuntamento con Indovina chi viene a cena per sabato prossimo alle 23 e per tutta l'estate, anche la domenica alle 13:30. Grazie per l'ascolto, ciao a tutti. You've